questo, solamente questo. Basta che facciate tutti quanti come me. Everybody dance, everybody dance. Go, go, go, go, go, go, go. Everybody dance, everybody dance. Uno, due, sei il segreto qui. Per ballare questo, come bello questo. Ad ognuno voglio far provare insieme a me. Everybody dance, everybody dance. Go, go, go, go, go. Che facciate tutti quanti come me. Everybody dance.